Buonasera e ben ritrovati a Nottetempo 7 Minutes, la nostra pillola musicale di musica indipendente. Io sono Livia Napolitano e questa è Radio Libriamoci Web. Come ogni settimana scopriamo un nuovo suono, una nuova musica e soprattutto una nuova musica libera. Quella di questa settimana ci porta alla scoperta degli inediti gitani, una musica dalle sonorità molto affascinanti che, unite a quelle del rock, danno un risultato davvero molto molto interessante. Vi lascio all'ascolto degli inediti gitani con il loro brano I Mate e Livino. Matelli ruino vino dai tegonanas, ruino li etova, ruino iline, stom se vincat ruino vino dai tegonanas, ruino li etova, ruino iline, stom se vincat ruino vino dai tegonanas. Seina! I matelli pari, i matelli pari. Matelli edri pari, dai teginanas. Edri li se tige, edri li ne. Stom se mi cat edri pari, dai teginanas. Edri li se tige, edri li ne. Stom se mi cat edri pari, dai teginanas. Seina! I matelli momi, i matelli momi, ai. Matelli mladi momi, dai teginanas. Mladi li se tige, mladi hiline. Stom se mi kat mladi momi, dai teginanas. Mladi li se tige, mladi hiline. Stom se mi kat mladi momi, dai teginanas. Seila! I matelli babi, i matelli stari babi, dreste gisavas, stari li setice, stari li ne, stam se mi cat stari babi, dreste gisavas, stari li setice, stari li ne. Dopo questo brano mi è venuta una certa sete, quindi un buon bicchiere di vino direi che ci sta tutto. Lo sorseggeremo sospesi nell'etere, aspettando la prossima settimana, dove potrete ascoltarci su Radio Libriamoci alle 18 alle 23 ogni sabato e domenica, e su Nottetempo Blog all'indirizzo www.nottetempoblog.wordpress.com. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.